Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 10 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Giornata difficilissima oggi, non solo per il paese ma per la borsa. Io allora adesso non ho la memoria storica tale, anche se 20 anni che conduco questo programma, per ricordare cali del genere. Sicuramente Wall Street in questa settimana ha fatto il calo più forte dal 2008, quindi siamo almeno al 2008. Lo dico perché adesso devo leggere degli indici che obiettivamente molte poche volte leggiamo, e cioè Milano meno 14,60%, è un crollo totale oggi a Piazza Affari, è scesa a 15.000 punti, Parigi meno 12,40%, Francoforte meno 12%, Londra meno 10%, l'America perde il 9,5%. Tra l'altro questo avviene nel giorno in cui la Lagarde ha annunciato, e mi riferisco quindi alla Banca Centrale Europea, un aumento anche massiccio del quantitative easing, di cui parleremo all'inizio. Il problema è che quindi acquisterà titoli per 120 miliardi di euro fino alla fine dell'anno, quindi un piano aggiuntivo, pronti a usare tutta la flessibilità del QE, però ha lasciato i tassi fermi e i depositi a meno 0,50%. Quello che però mi sembra stia emergendo abbastanza chiaramente è che la... In questo caso, come continuiamo a ripetere, non essendo una crisi finanziaria, quindi di liquidità in senso stretto, quella del 2008 era una crisi di mancata fiducia tra banche che non si fidavano l'una delle altre, non sapevano quello che l'altra banca aveva in pancia, quanto fosse esposta su strumenti derivati pericolosi, carta su carta, e non prestavano soldi. E lì intervennero le banche centrali a dire: non vi preoccupate, i soldi ci sono. Poi nel caso dell'attacco speculativo all'euro, ci fu Draghi che disse: non vi preoccupate, noi difenderemo, pomperemo liquidità per difendere l'euro, e quello aveva un senso. Qui il problema è come spieghiamo, sia di domanda, perché la gente non lavora, è a casa, non può muoversi, non può consumare, non si può spostare, non può prendere un aereo, un treno e quant'altro, ma è anche di offerta, e cioè in questo momento hai le catene della produzione che sono in estrema difficoltà, perché quando le filiere sono lunghe, in questo momento si sta bloccando la filiera. È vero che nel 1987 il Dow Jones perse il 22% in un solo giorno, però sono anche d'accordo che questa discesa va fermata a un certo momento, perché non è, guardate, non è l'Italia. Finalmente lo stanno capendo a livello europeo, anche se ancora poi hanno il terrore di affrontare l'unico tema che significa Eurobond, cioè mettere i soldi nelle tasche delle persone attraverso obbligazioni di carattere europeo che permettono appunto di non far debito nazionale e garantita dall'Europa. Perché va bene deviare dal patto di stabilità, va bene anche, come chiede il governo italiano, di sospendere tutte le clausole contro gli aiuti di Stato, perché in questo momento gli Stati dovranno pompare, dare soldi ai settori in maggior difficoltà, però manca una visione unica, c'è ancora un silenzio assordante dei paesi del nord. Adesso la Germania, e qui veniamo ai casi nuovi, inizia a capire che, lo diciamo da giorni, oggi ci sono tante tabelle in giro, se prendete la curva di Francia, Germania e Spagna è esattamente identica all'Italia, cioè giorno per giorno ripropone la curva italiana con un ritardo di 9 giorni. E io non so più cosa si debba dire e fare per far capire anche agli altri paesi che o capita qualcosa che non riusciamo neanche a immaginare, o se no loro sono destinati ad avere con 9 giorni di ritardo tutti gli stessi casi che ha avuto l'Italia, come, e quindi problema, non sto parlando di mortalità in senso stretto, sto parlando di problema delle sale degli ospedali, dei reparti a terapia intensiva. Allora, perché lo dico? Perché adesso aspetteremo, come ogni giorno dovrebbe arrivare alle 18 il bollettino della Protezione Civile Italiana, però la Francia è a 2200 casi, 2281, la Spagna è a 3000, la Germania è a 2078, e quindi anche oggi la Germania è come noi lunedì 2 marzo, la Francia è tra noi lunedì 2 marzo e martedì 3 marzo, e la Spagna è come noi mercoledì 4 marzo, visto che oggi appunto siamo al 12, è esattamente 8/9 giorni di differenza, con una progressione costante. Faccio notare che quando noi eravamo a 2000 casi già iniziavano le chiusure, lo sapete, molti lo sanno, nella notte gli Stati Uniti hanno bloccato tutti i voli dell'Europa, ma altri paesi stanno bloccando, l'Australia, ma Malta, stanno bloccando anche Francia e Germania, cioè stanno bloccando anche i cittadini che arrivano da altri paesi, non solo l'Italia. Dunque, gli aeroporti sì, hanno già chiuso le operatività, Ciampino e Linate, Fiumicino va verso un lavoro assolutamente ridotto, Venta l'ho scoperto, secondo me andavano bloccate, capito? E questo sono d'accordo, cioè non si può speculare sui mercati, su una crisi, sulla pandemia, sull'ansia, sulla preoccupazione delle persone, però cosa volete che vi dica? Amplifon meno 20%, Leonardo meno 20%, cioè qua ci sono dei titoli che in borsa stanno perdendo in un giorno un quinto del loro valore, ma non titolini, Leonardo, ex Finmeccanica, Poste meno 18, Enel meno 18, Atlantia meno 18, Telecom meno 18, dove mi fermo oggi? Mi fermo con chi perde meno del 15%, più del 15%, va bene, visto che è l'indice medio. Allora, Atlantia meno 18, Telecom meno 18, Mediobanca meno 17, come Nexi, come UBI, come Fiat e come Intesa San Paolo, il 17% di calo oggi. Unicredit meno 16, come Juventus, A2A, Biperbanca e Banco BPM, Pirelli meno 15 come Azimut, Era e Campari. Il titolo che perde meno, eppure perde tantissimo, è Diasorin, sapete che sta lavorando sui tamponi più veloci, e meno 5,80, Buzzi Unicem perde solo tra virgolette l'8,70, Ferrari il 9%. Ripeto, guardo il resto d'Europa: Londra meno 10, Parigi meno 12, Francoforte meno 12, Dow Jones meno 9%. Qui il messaggio che sta arrivando ai paesi da parte dei mercati è, diciamo, non ci fidiamo, non sono sufficienti le iniziative che avete preso, cioè voglio dire, nel momento in cui la Lagarde annuncia 120 miliardi di acquisto di titoli di quantitative easing, il mercato risponde crollando del 15% a Milano, del 12% a Parigi. Il messaggio non ci vuole un genio a capirlo, non che la Lagarde, però è inutile, insomma, è inutile in questo momento. Comunque di questo parleremo in apertura, poi torneremo con le grenze sulla psicologia delle persone. Già ieri ci ha spiegato una cosa molto interessante, la differenza appunto tra la paura, dove io posso controllare qualcosa, e invece l'ansia, che poi diventa anche panico quando diciamo non hai un orizzonte da questo punto di vista. Quindi non è tanto la paura del coronavirus in questo caso, ma è proprio l'ansia che sta generando, e cercheremo di capire anche perché di alcuni comportamenti schizofrenici. So che, e lo vedo anch'io, vengo al lavoro, il tempo necessario per svolgere il lavoro e fare il programma, noto anch'io che da domenica in poi a Milano obiettivamente la città è ancora più deserta di quanto non fosse nelle settimane precedenti, e vedo che, insomma, questo per fortuna sta avvenendo in tutte le grandi città italiane e anche nei piccoli centri. Domani però faremo una classifica diversa, non sugli sprechi della pubblica amministrazione, non mi sembra proprio il caso in questo momento, ma faremo la classifica del coglione virus, va bene? Perché ancora ci sono dei casi inaccettabili di persone che prendono la cosa sotto gamba. E allora, siccome questo poi ha un costo per il sistema sanitario nazionale, perché rischi di contagiarti e rischi di contagiare, e quindi a un costo delle vite umane di questi grandissimi eroi che sono tutti i dipendenti, i lavoratori degli ospedali italiani in questo momento. Per che cosa? Per fare una passeggiata in più, perché non hai capito, perché deve vedere la ragazza. Abbiamo raccolto un insieme di dichiarazioni, perché stanno arrivando le denunce, per fortuna, e che, voglio dire, da sole dovrebbero rinchiuderti per appunto per coglionevirus, non per altro, scusatemi la parolaccia, ma non so più cosa dire dopo settimane che stiamo dicendo per favore, no, cercate di, non cercate, vanno osservate le regole che si sono date, e le regole che ci dicono i virologi essere importanti, ognuno faccia il suo lavoro. Comunque, mi continuate a chiedere dell'astrologa. Sì, l'astrologa aveva previsto i quattro pianeti in Capricorno, abbiamo l'audio, vogliamo alleggerire con l'astrologa, vista la giornata, e alleggeriamo con l'astrologa, perché oggi non so veramente per alleggerire cosa fare, cospargere di elio lo studio. Allora, l'astrologa, quando le chiedemmo il 23 dicembre, che come ogni anno, 24 dicembre come ogni anno, le previsioni assieme a Giovanni Tamburi per giocare e scherzare sulla borsa guardando agli astri, ci disse questo sul mese di gennaio. Gli astri intanto si preparano a una mucchiata pazzesca nei primi mesi dell'anno, perché in gennaio ci sarà una congiunzione di Saturno e Plutone che non si verificava più dal 1518. Ah. Non solo, ma poi in febbraio e marzo si aggiungono anche Marte e Giove. Quindi sicuramente una spinta ancora al sovranismo, speriamo che sia l'ultima, e poi anche una spinta a dei risultati costruttivi evolutivi. Ci potrebbe essere qualche ricaduta, qualche peggioramento tra maggio e giugno, però diciamo che nell'insieme la situazione non mi sembra particolarmente difficile. È anche da paragonare 20 anni fa, quando c'è stata un'altra congiunzione Giove-Saturno, e finché non si è volatilizzata, finché non si è conclusa, comunque le borse hanno tenuto benissimo, quindi io sono favorevole per questo andamento. Aspetta. Quindi sì e no, diciamo, gennaio male, 1918 tra l'altro è quando esplose la spagnola, lo dico perché ormai qua, no, ormai, tanto no, chiudere le borse, lo so, l'abbiamo detto, l'ha spiegato anche, l'ha spiegato anche il presidente della Borsa Italiana Jerusalmi 2 giorni fa, vediamo se riusciamo a riprenderlo. Perché non c'erano motivi speculativi. Il problema è che senso ha, secondo me, tenerle aperte, perché non sarà panic selling, come mi dice qualcuno, cioè vendita da panico, ma short selling, vendita per portare a casa utili. Però, capito? Non so, però stiamo facendo la settimana peggiore del 2008. Qui andiamo indietro così, cioè, non so, qui stiamo andando a chiudere almeno 15-50%. Piazza Affari è 15.000 punti. Boh. Allora, no, l'astrologa l'abbiamo messa per alleggerire un po', vediamo. Dunque, questa mattina già i sentori si erano avuti a Mosca, meno 5%, Seul meno 4%, Hong Kong meno 3,70%, i minimi dall'aprile 2017, Shenzhen e Shanghai meno 1,5%, la Cina a febbraio ha fatto meno 80% di vendite auto, e quindi insomma era immaginabile. Il problema delle auto è che magari l'acquisto di beni durevoli è solo posticipato, come cerchiamo di spiegare anche qui da giorni, per cui magari l'auto, se tutto dovesse andare meglio in Cina, la comprerai fra qualche mese. I mancati consumi, per esempio, del mondo dei servizi, dalla ristorazione agli alberghi, dai viaggi a quant'altro, sono consumi che sono persi per sempre. Non è che, anche ammesso che tutto possa migliorare nell'arco di un mese, diciamo 2 mesi, non lo so, io poi potrò tornare a mangiare 2 volte quello, a mangiare, cioè, 4 volte al ristorante la cena, a bere 23 caffè e quant'altro. Quelli sono consumi persi per sempre. Molti dei viaggi sì, verranno riprogrammati, ma molti sono persi per sempre. Non tutti i settori sono uguali da questo punto di vista. Comunque, Wall Street è la settimana peggiore dal 2008. Trump continua ad avere un atteggiamento, secondo me, schizofrenico, perché da un lato dice... Ricordate la frase di 2 giorni fa di Trump, che diceva non è fa molti più morti l'influenza che non che non, eccola qua, 9 marzo ci sono 37.000 morti per influenza all'anno, in questo momento ci sono solo 546 casi con 22 morti, e quindi minimizzava. Falsi dati il 5 marzo dell'OMS sulla mortalità. Peccato che adesso i contagiati negli Stati Uniti siano saliti a 1.300. La borsa gli continua a crollare. Adesso ha annunciato misure economiche e fiscali, e sta chiedendo anche un piano straordinario. Quindi non si capisce. È come l'influenza, caro Trump, o è peggio dell'influenza? Quindi detto che non ha nessun motivo per fare i test, il mondo è stato preso alla sprovvista dal coronavirus, però poi dice l'Europa non ha fatto quello che doveva, sospesi i viaggi dall'Europa, tra poco, oggi dice tra poco le borse rimbalzeranno e sarà un balzo forte. Diciamo che l'esperienza italiana almeno dovrebbe aiutare gli altri paesi a capire di essere molto molto prudenti con le dichiarazioni. E poi oggi ha aggiunto: questa non è una crisi finanziaria ma una situazione transitoria. Boh. L'Europa lenta a reagire per affrontare il virus straniero, i cluster statunitensi sono stati seminati da viaggiatori europei. Mi sembra una polemica molto interessante. Allora noi dovremmo dire che da noi è stato il paziente uno europeo era un tedesco, che quindi la colpa è dei cinesi, cioè non so come spiegare. Eccezione solo per la Gran Bretagna nei viaggi, perché la Gran Bretagna ha meno casi degli altri paesi europei. L'Unione Europea oggi valuterà il blocco dei voli dagli USA verso l'Europa, perché non ha avvisato nessuna. L'Unione Europea ha disapprovato lo stop dei voli, gli Stati Uniti non sono stati consultati. Però è interessante questo, perché io non ricordo una posizione europea quando i paesi si misero a bloccare i voli dall'Italia, e vorrei avere una posizione europea, lo dico, non è area di polemiche, molto netta su quello che ha fatto l'Austria ieri. E adesso raccontiamo anche due cosucce su questo. Perché tu non puoi bloccare le persone, sospendere Schengen senza, cioè, richiamare. No, non abbiamo bloccato i controlli, si sono creati 80 km di rallentamenti sul Brennero, non hai avvisato l'Europa, ma in Europa c'è qualcuno che ha qualcosa da dire, avete paura dell'Austria? E sapete come andrà a finire la cosa dell'Austria? Adesso la dico, visto che ci sono. In Austria oggi le cose le vanno molto meglio, perché come l'Italia ha detto all'Austria ieri, attraverso il ministro Di Maio, che avrebbe applicato, e il ministro Lamorgese all'interno, avrebbe applicato le stesse regole nei confronti dei cittadini austriaci e delle merci austriaci che devono andare verso il sud, cioè che devono andare verso sud, anche perché, voglio dire, da questo punto di vista non si fermano in Austria, il 90% vanno verso la Germania e altri paesi, l'Austria ha velocizzato le procedure, i controlli sui tiri italiani su tre corsie, le ultime stime parlano di 400 transiti ogni ora. La Confindustria oggi chiede di sbloccare il Brennero, che l'Unione Europea dia delle sanzioni all'Austria. Io non so l'Unione Europea veramente che cosa aspetti su questo, e il ministro De Micheli di ripristinare la normalità del Brennero. Altre notizie in breve: oggi Princess Cruise ha sospeso le crociere per 60 giorni, non so cosa volevano aspettare un altro po'. Stanno bloccando tutte le navi nel mondo. Le Filippine hanno messo Manila in lockdown, cioè in zona rossa. La Repubblica Ceca ha chiuso a 15 paesi, tra cui Germania, Francia e Regno Unito. Divieto per i cittadini cechi di recarsi in quelle zone. Anche la Slovacchia ha chiuso a tutti tranne che ai polacchi. E adesso vedete che sta capitando, ahimè, anche che non solo gli italiani, ma anche i francesi, i tedeschi, gli inglesi non possono andare, ammesso che avessero voluto muoversi in questo periodo. E lo dico perché poi è uno scenario che stavamo immaginando: quando sarà tutta l'Europa, o i paesi principali diventeranno tutta area rossa, poi alla fin fine c'è poco da chiudere qui verso di te e te verso di me. Dunque, dicevo la parte che riguarda invece un'altra vicenda che per fortuna sembra essersi sbloccata, c'è una cosa incredibile. Allora, mentre ho capito che volete le cifre degli altri, la Germania ha superato i 2078, la Francia, devo ancora dare il dato però forse adesso, se non ho visto, 2281, Spagna 3000 casi e 84 morti in Spagna. La Gran Bretagna, che ha casi più bassi, è vero, sono 590, ma ha toccato un nuovo picco nell'aumento, 134 persone in più in un giorno. Dicevo, una vicenda che, di cui ci siamo occupati, che per fortuna sembra essere risolta. Allora, la Cina ha annunciato 2-3 giorni fa l'invio di centinaia di migliaia di mascherine. Il tema delle mascherine è questo: fino allo scoppio del coronavirus, sostanzialmente l'unico paese a produrle, perché hanno un bene a bassissimo valore aggiunto, costavano poco prima degli sciacalli di adesso, era la Cina. Noi adesso abbiamo rimesso in funzione, convertito un impianto per la produzione di mascherine, ma ci vuole tempo. Nel frattempo la Cina, che è arrivata a produrre 120 milioni, avendo un rallentamento dell'esigenza, ha promesso all'Italia l'arrivo di alcune mascherine. Nello specifico c'erano 830.000 mascherine chirurgiche, che sono quelle, diciamo, rettangolari, quelle che servono ai medici per non infettare i pazienti, non sono quelle altre, ma importanti anch'esse. Infatti devono essere date tutto al personale medico o comunque al personale sanitario. Dovevano arrivare dalla Cina all'Italia, erano ferme in Germania dallo scorso 4 marzo, perché la Germania ha bloccato tutte le esportazioni di mascherine. Peccato che queste dovessero solo transitare in Germania, perché il distributore stava in Germania e doveva darle alla Dispotec di Gordona, provincia di Sondrio, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti monouso, che le aveva acquistate da un importatore tedesco per dare la protezione civile italiana agli ospedali. Merce bloccata perché il governo tedesco aveva vietato di esportare le mascherine. Poi si sono mosse l'API di Lecco, la Confindustria, Confapi, scusatemi, le autorità italiane, ma non si riescono più a trovare. Dopo che è arrivato lo sblocco, sembravano sparite queste 800.000 mascherine. Non riusciamo a capire dove sono, dice Monica Mortarotti, titolare dell'azienda. Ripeto, vanno date una parte alla protezione civile, il resto a tutti i presidi ospedalieri. Sentiamo la Mortarotti, titolare della Dispotec di Gordona, provincia di Sondrio, dal microfono del nostro Emanuele Mortarotti, titolare della Dispotec di Gordona Sondrio, intervistato da Alessandro Arona della nostra redazione. Dalla Gazzetta della Federazione Tedesca è uscito un decreto abrogativo del decreto che praticamente vietava l'esportazione di dispositivi medici e dispositivi per la protezione individuale. Quindi non c'è più questo divieto di esportazione? Sembrerebbe, dopo è sempre scritto un po' in poletichese, poi in tedesco io faccio un po' fatica. L'abbiamo girato a questo nostro distributore tedesco, che ha gli avvocati tedeschi, per capire se effettivamente si può esportare sostanzialmente. Perché poi lì era un po' borderline, perché in teoria noi eravamo solo in transito dalla Germania, perché è un prodotto marchiato made in China, però come fabbricante risultiamo noi, che siamo un'azienda italiana, le certificazioni sono le nostre, il marchio sul pacchetto è il nostro, e transitava solo dalla Germania, nel senso che c'era il nostro distributore che ha acquistato in Cina con partita IVA tedesca. Cioè, credo che in teoria, essendo arrivato il container a Rotterdam, poteva neanche non passare neanche fisicamente dalla Germania, sarebbe passato dalla Francia, penso, e è entrato in Italia. Praticamente noi abbiamo ordinato questi prodotti già nel 2019, adesso non ricordo se novembre o dicembre, perché dalla Cina più o meno ci vogliono 3-4 mesi dal momento dell'ordine a poi quando arriva la merce. L'abbiamo importati assieme a questo nostro fornitore con partita IVA tedesca, che difatti era più o meno metà container lui, metà container noi. Al momento è arrivato settimana scorsa a Rotterdam, proprio quel giorno lì o forse il giorno dopo è uscito questo decreto che diceva, vietava l'esportazione, quindi il nostro fornitore, pur con tutta la buona volontà, dice io non posso esportarlo perché la Germania mi vieta. È una situazione incredibile. Qualcuno mi dice: guardi che arriveranno stasera a Fiumicino 31 tonnellate di mascherine. Sì, ma ragazzi, questa le ha comprata un'azienda italiana, la partita IVA del distributore tedesco, che via Rotterdam doveva mandare in Italia. Ci sono 800.000 mascherine, ma invece di tante dichiarazioni di Angela Merkel, che non ha nessuna responsabilità su queste mascherine, ce le fate avere, visto che sono nostre queste 800.000 mascherine, no? Visto che avete anche osato dire all'inizio che l'Italia non si era mossa molto bene. Adesso vedremo quanto bravi saranno i tedeschi, per carità. Sicuramente poi mi fate anche capire come funziona sto il conteggio dei morti in Germania, che tuttora le cose non mettono, però c'è stato un grande picco però di morti da influenza anomala in Germania, non coronavirus, ma morti da influenza anomala. Vabbè. Sì, qualcuno dice denunciata la Germania per furto di mascherine e tentata strage. Non so, però qualcuno si muove. Il ministro Di Maio, mi rendo conto che ha tantissimo da fare, però sta vicenda è incredibile. 800.000 mascherine chirurgiche ferme in Germania, dai. Vabbè, vabbè, un cavolo. Comunque lo spread a 260 poi rallenta, ci sono dati sulla sull'occupazione in Italia nel 2019, al top l'occupazione con 130.000 part-time in più. Oggi invece sulla pubblica amministrazione è intervenuta la ministra Fabiana Dadone a Radio 24 questa mattina con Simone Spezia e Maria Ratella e ha detto... mi dice, mi scrivono in molti segretari comunali, sindaci, che dicendo che non tutti sono riusciti ad avere lo smart working richiesto, e ha detto faremo una direttiva, una norma per specificare che gli uffici pubblici devono rimanere funzionali ma devono concedere il lavoro agile necessariamente. A me scrivono tanti segretari comunali, sindaci, persone che lavorano all'interno della pubblica amministrazione che per esempio in questi giorni mi hanno detto non tutti essere riusciti ad ottenere lo smart working a fronte di richiesta, motivo per cui siamo intervenuti ieri con DPCM specificandolo e oggi faremo una direttiva e se riusciremo addirittura con norma nel decreto di venerdì per specificare che gli uffici pubblici devono rimanere funzionali ma devono concedere questo tipo di lavoro agile necessariamente perché deve diventare in questa fase la modalità di lavoro ordinario. Cioè lo rendete obbligatorio in sostanza? Ordinario, sì. Salvo che è chiaro per quei tipi di lavoro che non si possono fare tramite computer. Allora, un'ultima nota, adesso partiamo subito con i mercati e con la Banca Centrale Europea. Professor Donato Masciandaro, docente di economia monetaria all'Università Bocconi di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera innanzitutto. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, poi dopo il meteo e la pubblicità faremo sentire anche la Lagarde. Mi dica subito, questa reazione è anche un messaggio alla Lagarde o comunque la borsa sarebbe crollata lo stesso, come dire, cioè non è un messaggio anche alla Lagarde? Ma quello che possiamo dire è che la Lagarde non ha ripetuto gli errori di Powell. Powell ha fatto una sorpresa ambigua che non è stata capita e quindi lì sì che i mercati gli hanno votato contro. In questa occasione i mercati possono dire che non gli piace quello che la Lagarde ha detto, ma non che non l'hanno capito. Quindi io credo che da questo punto di vista la Banca Centrale Europea si è comportata meglio della Fed. I mercati non possono volere sempre comunque liquidità anche quando non serve a niente, per non parlare dei tassi di interesse negativi. Allora, poi vediamo di capire appunto che cosa è successo sui mercati e cosa è deciso dalla Lagarde. Faccio notare che al momento la seduta del Dow Jones, quella di oggi, è la peggiore dall'8 ottobre nel 1987. No, lo dico come aggiornamento statistico. In questo momento l'America sta prendendo il 9%, Milano ha chiuso con un meno 17%. Parigi sta andando a chiudere con un meno 12,30%, Francoforte meno 12,30%, Londra meno 10%. Meteo. Focus Economia. E poi ci sono anche le partite IVA, ci mancherebbe, sono d'accordo. Dunque, meno 17% Milano. Oggi che commento di borsa volete che faccia? Adesso, a parte gli scherzi, se il titolo che perde meno è di Asorin, che pure sta brevettando i tamponi più veloci, perde, ed è il titolo che perde meno l'8,85%, e il titolo che perde di più è Atlantia, il 22%, tutti gli altri perdono tra il 22 di Leonardo e il 10 di Ferrari. Il commento mi sembra superfluo. Il peggiore, Serini Impregilo, ha perso il 25%, cioè ci sono titoli che oggi hanno perso un quarto o un quinto del valore in borsa in un giorno. Credito Valtellinese meno 21,80 e via così. perché facciamo ancora il traffico con le strade bloccate, perché ci sono ancora le merci che si spostano, c'è ancora qualcuno che si sposta per lavoro, ecco perché manteniamo le informazioni sul traffico. Allora, professor Paolo Legrenzi, che ieri è professore emerito di psicologia cognitiva all'Università Ca' Foscari di Venezia. Buonasera, professore. Buonasera a lei. Lei ci ha spiegato ieri la differenza tra paura e panico, laddove esatto. La paura è utile perché mi permette di stare attento quando guido, quando attraverso la strada, ma soprattutto io penso di poterla controllare, cioè il rischio della paura, e quindi se guido con prudenza, se sto attento... Mentre lei pensa di poterla controllare, esatto. Mentre il panico è l'equivalente dell'incertezza in economia rispetto al rischio, non ho nessuna capacità esatto. di misurarlo e diciamo, e questo non ho gestione e controllo. Secondo lei oggi in borsa è stato più panico o paura? Oggi c'è più un ragionamento delle vendite, vado a vendere perché qui l'economia rallenterà, ci sarà un danno economico e questa sarebbe paura. Se seguo il suo ragionamento, o panico, vendo perché non so quello che succede? Penso un misto di entrambe le cose. C'è panico per imitazione, perché tutte le borse mondiali stanno scendendo. E ovviamente ci sono alcuni che se ne approfittano, perché la borsa è l'unico posto al mondo dove si può guadagnare con le perdite, naturalmente. Terzo aspetto, togliere un po' le emozioni da tutte queste interpretazioni, perché due terzi dei movimenti sono fatti da computer. Da computer possono certo. attribuire emozioni anche al computer, nulla è proibito. No. Nulla è proibito, però sono emozioni un po' diverse perché sono legate agli algoritmi che in automatico vanno a vendere, lo dico bravissimo. A tutti. Non dimentichiamo neppure questo. No, ha ragione. La domanda è mal posta, se mi posso permettere. In questo periodo mi sembra la cosa... La cosa minore. Quali che le borse tolgono, ma danno anche, perché il rapporto prezzi utili era sopra 20, era un carissimo. Sì, sì, guardi, la media è 15, delle volte possono anche andare a 12, se no la media non sarebbe 15. No. Come i morti di virus che hanno in media, cioè anzi la mediana, se vogliamo essere precisi, è di 80 anni. No, ma ha fatto bene a ricordare che le borse venivano da un periodo altissimo e stavano... scontando utili almeno a 20 volte il prezzo, quindi sì. Ora il problema è la velocità di questi crolli, perché Wall Street così non aveva mai perso dal 19 ottobre del 1987, famoso lunedì nero, ha perso questa settimana solo come nel 2008, e io non ricordo, se non appunto in quei casi che citavo, 2008, Milano fare meno 17, meno 16, 90% in un giorno. Comunque resti con noi Legrenzi, perché poi vorrei capire invece la nostra schizofrenia anche nel timore, diciamo, dell'economia che venga giù, però nel timore di non contaminare gli altri, cioè è come se vivessimo uno sdoppiamento continuo, a mio avviso, dopo il GR24. Focus Economia. Allora, le rappresentanze sindacali FIM, FIOM e UIL chiedono di concordare fermate produttive coperte innanzitutto con strumenti contrattuali. In mancanza di ciò potrebbero arrivare allo sciopero e quindi l'astensione unilaterale nazionale dell'intero settore merceologico, a prescindere dal contratto utilizzato. Chiedono lo stop delle fabbriche. C'è stata una protesta spontanea alla Fincantieri, in sostanza, e chiedono di estendere le fermate produttive. In sostanza dicono in alcune situazioni non è garantito gli elementi di sicurezza. Poco fa ha parlato Borrelli, qualche istante fa, e ha detto: per le fabbriche come per le filiere essenziali di sanità e del mondo alimentare si era parlato dell'uso di mascherine. A breve ci sarà un provvedimento del Ministero della Salute. Il principio è che non serve la mascherina se si mantiene a distanza di un metro. Se non si potesse mantenere a distanza nel luogo di lavoro vanno utilizzate le mascherine. Vincenzo Marinese, presidente Confindustria Venezia, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Senta, lei ha scritto una lettera ieri a Conte, prima che Conte uscisse, poco prima che uscisse con il nuovo DPCM. C'è stata una forte trattativa, sappiamo che i governatori, in primo luogo Fontana, chiedevano anche la chiusura delle fabbriche, non di quelle che producono beni essenziali, sanità e alimentari in primis. Invece abbiamo avuto ieri anche l'intervento della Presidente di Confindustria Lombardia Bonomenti, che ha detto no, per favore non mettete ulteriormente in ginocchio il paese, perché le fabbriche lavorano anche con committenti esteri, e quindi se io non gli fornisco la committenza, quelli vanno da altri clienti, non li riprendo più. Ora, qui vengo al tema che stavamo trattando con lo psicologo Legrenzi. Qui uno ragiona, sia deve ragionare in primo per la sicurezza di tutti e come cittadino, però poi ragiona anche come soggetto economico. Dove si trova un punto di caduta tra queste due, diciamo, posizioni? Ma il punto di caduta deve avere delle premesse, nel senso che la salute viene prima di tutto, e chi parla di economia non è detto che non voglia tutelare la salute. Se si crea questo conflitto dal punto di vista dialettico, si parte da presupposti sbagliati. C'è chi dice di mantenere le fabbriche aperte non vuol dire che non voglia tutelare la salute delle persone, anche perché la salute è di tutti noi e dei nostri familiari, come la viviamo all'interno delle fabbriche, la viviamo all'interno della nostra vita privata. Tutti siamo genitori, prima ancora di essere imprenditori e lavoratori, e siamo cittadini. E perciò la salute viene prima di tutto. Dall'altra parte viene anche l'equilibrio economico, perché poi ha un impatto psicologico sulla vita nostra che è diretta, perché poi se chiudiamo tutto, ci dobbiamo, risolto il problema della salute, porre un problema e un tema: come viviamo? E siccome le nostre risorse non sono illimitate, anzi sono molto limitate e dipendono molto da altri, e nel caso specifico dalla Comunità Europea, se noi alla fine chiudiamo tutto e ci vengono a mancare parecchie decine di miliardi di euro, rischiamo di non avere la cassa per poter mantenere la vita dei cittadini e la vita delle famiglie. E questo è un tema. Io so che può essere scomodo parlarne adesso, perché ci sono molti, tra cui anche il sottoscritto, che è combattuto tra tutelare la salute e l'aspetto economico. Ma non è un fatto di essere combattuti. Io voglio tutelare la salute. Noi vogliamo tutelare la salute. E dall'altra parte, però, come classe dirigente, ci poniamo il tema dell'aspetto economico, che avrà una ricaduta immediata, perché superata l'emergenza ci sarà il problema economico che riguarderà tutti noi, e non possiamo affrontare le cose. Però il DPCM di Conte di ieri dice in maniera molto esplicita: voi potete restare aperti se riuscite a mantenere le condizioni di sicurezza, giusto? Ma questo è un elemento faccio un esempio. Nella fabbrica intesa come quella che una volta era la catena di montaggio, adesso lavorano soprattutto robot e operai super specializzati, lì la distanza, per quelli che ho visitato io, di vario genere, metalmeccanico, ma non solo, è più facile da mantenere. Spesso gli operai già lavoravano con tute e comunque adesso avranno mascherine e occhiali. Altra cosa all'interno di una fabbrica è la parte amministrativa, là dove hai scrivanie e uffici. Allora uno dovrebbe dire, come abbiamo fatto in altre parti, quella parte lì tutti a casa in smart working o la maggior parte, e poi invece le condizioni dentro, diciamo, lo stabilimento produttivo vero e proprio. Ma se il datore di lavoro si rende conto che nel proprio processo produttivo non possono essere rispettate gli elementi di sicurezza, e la distanza è uno degli elementi di sicurezza, deve chiudere. Non è che non deve chiudere, perché se vengono a mancare i presupposti minimi della sicurezza, e oggi sappiamo quanto sia delicato questo elemento, perché dobbiamo rispettare delle distanze, ma in termini anche nelle nostre abitudini. Io guardi, facevo oggi un esempio con una persona. Noi utilizziamo il cellulare, lo prendiamo, lo appoggiamo da tutte le parti, poi ce lo riprendiamo in mano, lo mettiamo accanto alla bocca. Anche questo elemento è un elemento che va gestito con assoluta cautela, perché il cellulare, in base a dove lo poggiamo, non può essere altro che anche un ricettore di microbi. È inutile che prendiamo le mani e ce le laviamo, se poi alla fine non utilizziamo gli oggetti che mettiamo accanto alla bocca e laviamo anche loro. Cioè c'è un problema proprio di educazione sanitaria che riguarda l'educazione del singolo. Ma quindi lei cosa direbbe ai sindacati che invece stanno protestando buonamente? Poco fa ha detto la decisione di programmare gli scioperi sarebbe da irresponsabili, cioè perché dicono non vengono tutelate, non sono in grado di tutelare le condizioni di sicurezza. Io ritengo che i sindacati, anziché proclamare uno sciopero, suggerisco, dovrebbero, e questo nel DPCM è previsto, parlare direttamente col datore di lavoro, avviare un confronto col datore di lavoro e nel merito delle cose entrare effettivamente sui casi specifici. Okay. Perché cose generalizzate, secondo me, ci fanno male. Non ci fanno male perché non tutelano la salute, ci fanno male perché poi alla fine le persone in un qualche modo, alla fine di questa grande emergenza, e dovremmo pagarle. Allora, Ho capito benissimo, grazie anche Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.